Italia. Ecco, sono qua, sono qua. Buonasera. E allora? Buonasera, vedi. A mezzo della televisione. Se hai 700 cacure, cosa vuoi fare? andiamo. Dai. Hai visto il romanzano in bicicletta? Ehi. Certo. Certo che non mi posso mettere, oh, ti potrei anche mettere così, ma no, io non mi allontano, no, cazzo, ma scherzando, sai, tu lo puoi fare, io no. A metterti tutta così, proprio da ciclista, oh, sto sperando. Oh, c'era solo che lo stanno facendo, ma io non ci riuscirei a fare una cosa del genere. Poi bisogna avere il mezzo adatto, dai. Il mezzo ce l'ho, però non ci arrivo bene, perché se mi fermo, se no metto il piede in terra, ti pare come il sacco di battato. Quello sì, piace così. Se no, oh Giulia. Allora, hai ragione. Non si trova la batteria. Già ci saranno senz'altro più forti, però non sono riuscito a interpellarissimo. Vabbè, ma con un numero, un coso di PA che mi ha rimandato. E la bandiera di oggi, la giudizia precisa. Cazzo, 800 e rotte è salita, ha aumentato di brutto quel tipo di bicicletta. Cazzo, ce n'è una bianca e una nera. No, ma via, si è spostato con la batteria più bassa, già ci sarei arrivato, già benissimo anche. Allora magari avrei potuto azzardarmi a camminare anche dentro città, ma così no, ho capito. Cioè, sono belle come la tua, a batteria, belle. La sorte, ma quelli costano parecchi. L'ultima che è uscita, che l'ho vista nel tablet, l'ultima che è uscita costa 7.900 euro. Ehi, ne ho visto una bella, cazzo. Quasi, è presa la tua, solo che è nera. Cazzo, e costa 890, quasi 900 euro. Cazzo, io sono la giubbaga da quasi 1.000 euro la giubbaga. C'ha anche il freno a disco, c'ha anche il contachilometri. Sono bellissime. Cazzo. Ecco la carica di cosa fa? Quasi 47 km. In autonomia. Però sempre pedalendo. Non lo so se è così per l'altro. Penso di sì. Ma mica sono belli, certo in discesa non pedalino, in discesa cammina da solo, in rettilinea, a casa che tu cammina, a Puglia. Infatti è così, bisogna difendere, ce ne può salire e chiedergli quanto la me la valuta la mia e guardare se ce n'ha qualcuna che costi al prezzo che voglio io. E dov'è quello del portatore? No, è in via Napoli e mi servo sempre da loro, mi servo, è un nocio e so come lavorano, è gente seria questa. Ah, e ci saliamo insieme qualche giorno, che ci sale, che è qualche della mia. Certo, io penso che se li faccio vedere la mia, li piacerà anche a loro. Ma sai cos'è? Che non te l'ha dato al prezzo che l'hai pagata tu. Lo so. Io l'ho presa in offerta. Ce n'erano due in offerta. Non è che l'abbia pagata molto, io ho pagato 474 euro, adesso cosa 600 e rotti. Vabbè, se farla vedere a loro, in fotografia, a vedere cosa ti danno loro. Quando sali tu ci saliamo insieme, to. Vediamo un po'. Io diciamo che ci salga e glielo dico. Ci saliamo assieme e così gliela fai vedere in foto dal telefonino cosa te la valutano loro e così guardo anch'io a vedere cosa mi dicono. Ci saliamo insieme quando sei disponibile, so. Vediamo un po', faccio vedere il depliant, oppure sono appunto del telefonino, vediamo un po' così, tanto per curiosità, meglio così a sento malani di Zaghito, no? Infatti, se non fai così bisogna fare, c'è delle cose che si costano bene, chissà che voglio io, la foto con la finanziaria. Vabbè, ma io... se la trovo se la pago la fare in contanti, capito? No, mi piace, mi sta grattendo, no, capito? Se hai preso ragionevole rischierei, capito? Quello sì, quello già si può fare, ma non fa così, bisogna fare pure, qualche volta bisogna fare così. Chi ce l'abbia, chi ce l'abbia, che ha visto il suo manzano? Sta già pagata in contanti, sta già obbligata. Eia. Questa che ho visto io, è bella, è tipo particolare, c'è un telaio particolare, però c'è la batteria più bassa del sedile, capito? Per cui tu sedile puoi abbassare tutto completamente, per cui ti arrivi benissimo a terra, capito? Quella è molto importante, capito? In modo che quando ti fermi metti i piedi in terra anche seduto su sedile e rimani dritto, capito? Quello che ho visto io c'ha anche i freni a disco, c'ha il contachilometri, capito? C'ha un altro insomma ti dico che è bella, va. Infatti è così, vuole, ma ti credi che io da sedere come ce l'ho io ci arrivo a terra, mi trambo appunto i piedi, però me ne vado da Rosellino. Vabbè, certo. Tu lo sai che io non è che ci abbia le cose tue adesso, no, cazzo. Prima me la giocavo la bicicletta perché ho avuto anche certa corsa e bicicletta l'ho avuto in gioventù, parecchie pure. E per cui mi fermavo e ci arrivavo, le ammazzavo chiaramente, capito? Perché io sono gambi corte, per cui invece tu ce l'hai più lunghe delle mie, allora ci arrivi più bene. Ma lo puoi sollevare ancora e sedere tu, ma io se lo sollevo non ci arrivo più nelle pedali. No, bisogna stare a metterlo in sedile, bisogna metterlo a coso del coso del sedile, ma delle pedali, come viene accomodato a te per i pedali, che cosa è? Ma mi sono accorto, io non ci ho pensato a quello io, quando l'ho preso, non ci ho pensato, ma chi ci pensava che era rimanevo così alto che lo ammazzava completamente il sedile, invece toccano le molle alla batteria, capito? Almeno 1,5 cm, massimo 3, ci arrivo benissimo, però non si può fare un modifica. Magari forse ci sono i sedili che non hanno le molle, forse magari un sedile in genere, però il sedile vuole molleggiato, se no povero tribunale. Ah, io gli hanno viaggio di questa maniera, il mio è rigido. Vedi, magari mettete su un sedile rigido, va bene, ma addio il sedile, capito? Si ribalta il sedile comunque. Infatti per togliere la batteria deve ribaltarlo, c'è un gancio che lo ribalta, la punta a terra, e allora puoi togliere la batteria benissimo, ce l'hai infilata, capito? È ribaltabile il sedile che ho io. Infatti, è così, bisogna metterlo così, bisogna metterlo. E che se no, ohia, andiamo di domani da proprio, no, non esce, se il sedile è fisso. Cioè, ribaltarlo e togliere la batteria. L'hanno fatto così, ribaltabile, in modo che tu ribalti il sedile e la batteria la puoi togliere. Sembra così, ma è lunga la batteria, capito? Anche sollevando tutto il sedile, non esce se non lo ribalti, capito? Perché supera quell'altezza della batteria, capito? Infatti, supera quell'altezza della batteria, supera. E bisogna sollevare il sedile. No, invece quelle altre che stavo guardando io sono nel telaio di che congiunge la forcella. Ce ne sono tanti tipi, ce ne sono che ce l'hanno sotto nel petto della bicina, ce l'hanno dietro, sotto il sedile, dietro il sedile, e tanti tipi ce li hanno, oppure quelli che magari tu vuoi quella precisa, la tua, che la batteria magari è sul telaio, capito? Se no ci sono anche quelli che ce l'hanno dietro su portabagaglino là. Infatti. No, ma quelle che tipo come quella che ho io ce l'hanno nel telaio, ce l'hanno. E infatti il telaio è più largo del coso, ce l'hanno lì. Ci sono i telaio più larghi, sono i telaio più stretti, capito? Però è secondo il tipo della batteria, capito? Di tanti tipi, mi stavo guardando fino a poco fa, per un'ora e mezzo quasi, attaccato di tutte le maniere. Alle mazioni ce ne sono parecchie, ce ne sono molti, molti, molti, di tutti i tipi. A voi la bicicletta elettrica, che ce ne sono pure a tre ruote, come una che avevo visto a Sassari, a tre ruote. Di quelle ce ne sono, mi pare ve ne so, sette ve ne so. E ce li ha anche quello di Via Napoli, ce li ha. Infatti. Ne ho visto uno l'altro giorno vicino a cosa, in Monserrato, l'ho visto. C'ha un cestello grande, no? E c'ha tre ruote, capito? Lì c'è il pericolo che si curi, chi capisce, di arrivare dritta. Lì ci puoi mettere un paio di sacchi di cemento sopra. E questo rimane troppo bisanta da bui, sforza troppo la cosa, sforza l'elettrico. Ma le batterie sono le uguali agli altri, mi so. Sono da 30, sono da 12 volte, anzi no, 30. Allora me ne ha messo 36, 250 watt, cazzo, la Puglia. Sì, ma non è la batteria che sforza, è il motore che sforza, hai capito? Dovrebbe andare a fuoco, ma poteva andare. Ho visto che c'è anche la Vespa, cazzo, 2.700, quasi 3.000 euro costa. La moto? La Vespa, la Piaggio. Ah, ce l'ha anche la Piaggio, ce l'ha. E anche la Piaggio ce l'ha. Bella, e poi ci sono altri motori di scooter, capito? Se non sono miglia. Non lo so come sono quelli scooter, capito? Però dovrebbero essere anche più riservati, non lo so. Però come batteria penso che siano sempre le stesse. Penso di sì. Le batterie sono sempre le stesse. Il motore che cambia un po' come coso, come tiraggio? Non lo so, io non l'ho toccato mai, vabbè che io non è che ne abbia fatto strada, sai strada, io l'avrò fatto un paio di giri qua, due o tre giri, dieci o qua, mezz'ora nemmeno pure, perché non scalda il motore, perlomeno non l'ho toccato se scalda oppure no, ma penso che siano fatte apposta, già si raffredderanno. Boh. Ma infatti, se si raffreddano, camminendo. Se poi non scaldano quasi nulla, non scaldano. Ma guarda, se li hanno fatti, prima di essere svegli, se li avranno collaudate, no? Cazzo, non penso che mettono in vendita una cosa che non va, capito? Per cui bisogna guardare anche se si dovesse guastare un pezzo che ci abbiano almeno i pezzi del ricambio, quello vuol dire molto, perché dopo come fai tu se più una bicicletta che non riesci a trovare un pezzo del ricambio? Ah, quello sì, uno ordinando da fuori, cose che non riesci poi a trovare, magari qua già si trovano tutti i pezzi. E adesso il fatto che io ne ho davvero a voi, a che cosa? E i pezzi? Fate. Quello è molto importante, perché cazzo, hai ragione, magari le ruote, magari la ruota anteriore è facile a trovarla, ma quella posteriore che c'è il motore dentro, adatto a quell'impianto che c'è, capito? Non lo so, non penso che le cose siano giuste, ecco. Ma comunque ci saliamo quando c'è tempo, me lo dice, ci saliamo insieme, io glielo faccio vedere, i dettagli faccio vedere, grazie a lei tutta la questione, per cui secondo quanto me la valuta che mi dà una lui, certo io la prendo, capito? Ma tanto ce li ha in esposizione, ce li ha lui, se vieni in esposizione, e ti dice prima, se la scelga prima e poi vediamo. Facciamo così, ci saliamo e vediamo un po'. Comunque, in caso mai la metto in vendita, capito? Infatti, già detto a Luca, la mettiamo, facciamo le fotografie, la mettiamo, capito? Perché Luca la sala ferma, l'ho comprato anche i copri bicicletta a nuovo, l'ho tutta coperta, così che fino a fondere le ruote coperta, per cui nemmeno polvere prende più, è sempre come l'ho presa, va. È fatto bene, il coso lì, cioè, loro già quando la vedono fanno lì il prezzo, tu magari scegli quella e loro ti fanno il prezzo di quella lì, ecco cos'è. E facciamo così, ci saliamo e vediamo un po'. Anche per curiosità, tanto tu ci devi salire e vedere un po' per la tua, no? E poi se dovessi capitare, se facciamo l'affare, ci fa l'affare e ci raccampa, capito? Quello è fatto, perché ripeto, mi piacerebbe averla, però che la posso usare, questa sì, la posso usare, però devo stare attento quando mi fermo di che c'è un marciapiede, una cosa per appoggiare il piede, capito? Spesso è quello è il fatto. Io già non nasce problema che se non vero marciapiede mi fermo e me ne varo da Osellino. non c'è problemi. Io fa cazzo, perché cazzo, a me mi è piaciuta, quando l'ho vista, cazzo, me l'ho vista, me l'ho ordinata subito, cazzo. Io da dove l'ho preso? Da cosa? Dalla Puglia, a Puglia, a Foggia mi sembra, da Foggia l'ho presa io. Infatti è fatto bene, così a fare, e noi ha dato un macello era. E purtroppo se non ti va bene del coso, no, è meglio venderla e prendere un'altra che sia più bassa. Faccio adesso io magari la mattina, sarei acceso, avrei portato fuori, ma avrei fatto dei giretti anche per le gambe, capito? Ma avrebbe fatto anche bene anche a me, capito? Come ha fatto un paio o tre volte, l'ho fatto in giro, sono sceso lì fino a Marsanna e sono salito fino a coso a Bunker, ne sono sceso, basta, in giro io ho fatto così, ma due o tre sere mi l'ho presa solo tu. Sì, no, già è così, sì. Così che non è che abbia camminato la mia. Sì. E poi ha visto, c'ha le frecce, c'ha lo stoppo, c'ha i classon. È bellina, dai. Mi spiacerebbe darla magari perché è completa, capito? No, che non ci arrivo. Cazzo. Deve essere più bassa la mattina, almeno di 3 centimetri, cazzo. 3 centimetri già un bimbi. 3 centimetri zombie fa luci, e non ci hanno pensato loro, l'hanno costruita alta così, ma non ha mai dato la gente che magari uno più basso. Infatti la batteria che doveva essere leggermente più bassa, leggermente più bassa la batteria, almeno 3 centimetri. Non ci hanno pensato a dire che qualcuno magari ha le gambe corte e per cui deve abbassare fino ad arrivare a zero, capito? Invece no. Adesso c'è la maniglia che tu che prendi quando la togli la batteria, se io le tolgo quella maniglia, abbassa allora, abbassa, però se devo dopo togliere la batteria, viene male a toglierla, non è che non si possa togliere, ugualmente si toglie, però tagliando la maniglia allora andrebbe con le punte e ti arrivo a terra. Vabbè, il coso dove va la batteria non si può abbassare. Di poco. No, che perché c'è un basamento saldato al telaio sotto, capito? Si sente, non abbassa di più, capito? Rimane solo, quella batteria pesa, sempre l'ultima pesa, amico. Per cui c'ha dei tubicini saldati al telaio, in modo che la batteria anche trovando un posto non sforzi il telaio, capito? E rimane solo la bella forte sotto, capito? Ecco, tutto lì. Vediamo un po', là. Adesso vediamo un po'. Prima vediamo un po', ma lei vada se non riesco a venderla, le taglio la maniglia e allora ci arrivo tagliando la maniglia, perché allora scende almeno 2 centimetri, scende quelle punte dei piedi, riesco ad arrivare a terra, capisci? Vabbè, vediamo, no, già ci saliamo un giorno a vedere. Bella, questa che ho visto costa 780 euro, bella, è bella, ma è cui no, non è che sia attrezzata come questa che ho. Si può mettere il cestello, le luci ci sono, la batteria più corta, anzi più piccola pure del sotto il sedile, per cui abbassa tutto completamente. cosicché le ruote sono da 28, invece queste che ho io sono da 16, da 26 anzi, invece quella che ho visto io in internet sono da 28, sono più grosse anche le gomme, capita? Sì, nelle cose della bicicletta, Io ho quella che ho io, quella che ho visto stamattina, quelle sono da 27, sono. Invece l'altra che ho appesa è da 26. E bisogna fare così, bisogna fare. Prenderla, magari quella, se prendi quella più grande, da 28, bisogna avere se il selino abbassa tutto quanto e ci arrivi. Poi quello conta la gomma, e lì sono fini le gomme, capito? Mentre invece le tue sono più grosse, capito? Ecco, io mettendo lì posso mettere anche quelle gomme più larghe, capito? Leggermente, con più battistrada, capito? No, quelle che hai visto stamattina, quelle sono quelle lisce che sono per strada. Poi c'ho gli altri che sono quelle tacchettate, le originali sue, che c'erano prima, quelle lì sono tacchettate, che sono nel magazzino. Queste sono quelle che c'ho io, sì, sono tacchettate, però sono basse, capito? È proprio da traetta così, in città, capito? Mentre invece quelle che c'è tu posso anche provare anche un po' di sabbia e attaccano, capito? Invece le mie potrebbero li scivolare, capito? Infatti, no, io le ho cambiate quelle lì, ho messo quelle lì, quelle lì proprio per andare su strada, cammina più veloce il burro dei guidi, l'ho preso. Quindi lo gioco che non è guida, è solo per sterrato. Ma infatti sono più veloci, sì, già lo crepe, sono fatti apposta, capito? È meno rumorose anche, capito? Però avendo tacchettate, e allora la gomma attacca di più, capito? E poi anche camminare sull'acqua, anche, non dico sulla neve, però attaccano, capito? Sì, no, quelle prima me ne andavo giù a Plattamola, me ne andavo dentro la pinetta e corriamo in bicicletta dentro la pinetta. Vedo un po'. Cazzo, infatti io mi avrei fatto dei giri, questo adesso già c'è fresco, per cui la mattina conviene a farsi un giretto in bicicletta, capito? Sempre a giornate che non ci sia acqua, perché se piove, ma assolutamente toglierla è. Se c'è vento, ma se c'è un papera di vento non fa niente, già camminano Mattesi. Non ne pigli anche in salita, non pigli fatica tu. Tu sei pedale così, pedale leggero e cammina sempre, anche in salita. No, mentre se li faccio io, bisogna pedalare in alzata. Metti la parte più leggera, però bisogna pedalare. Cosa ti sto dicendo? Che pedalata però non è pesante quando è normale, capito? È leggera, sai, in salita. Infatti, in salita è più leggera con la batteria a elettrico. Non sforzi come sforzo io per salire. Ma ci se riesco, un modo dell'altro devo riuscire a trovare il sistema o a cambiarmela, dai, devo riuscire per forza, perché è meglio che faccia un po' di movimento con le gambe, in bicicletta è l'unica soluzione, perché cammini e per cui fa bene, fa benissimo alle gambe, capito? Ai muscoli, e per cui devo trovare la soluzione, perché è una cosa molto utile, capito? E per cui la pedana no, sì, va bene ugualmente, ma non l'ho più usata, infatti è nuova, non l'ho usata mai, mai, so che niente l'ho usata, per cui però in bicicletta è tutta un'altra cosa, chi mantiene l'equilibrio, insomma riesci a mantenere l'equilibrio anche dopo camminare a piedi, non come il primo giorno, no, me ne c'ho la bicicletta e sembravo pedalando. Vabbè, ognuno va così su, aspetta, hai detto che devi messa sempre bugiati, no? E già non viaggio, gli affermo. Hanno già lo coso su, io vedremo, arrivederci. Ehi, un attimo. Eccoci, tutto a posto, sì? Aspettavo che abbassassi il volume. Perché è troppo alto, era. Ah? Troppo alto era il volume. No, siccome aveva sentato, aveva senti, aveva abbassato il volume, perché c'era la televisione accesa. Vabbè. Aspetta, vedete se ne attene da campagna, signor Marchisio. Attenzione, signor Marchisio. Andata va. Ancora non è pronto. E allora venerdì ce l'avrà a notto? Non lo so, non te lo so dire, perché ci sono due date, ci sono, non so se giovedì o se al 18. Ah, perché tre giorni lavorativi arriva, se è stato fatto ieri, oggi magari restituiscono e venerdì arriverà. Non lo so, no. Ci ha messo due date, ha messo. Passi pure che arrivi giovedì. Ah, ecco, va che passi. Vai a fare fretta. E almeno tranquillo, no? ha fatto bene. No, cazzo, al momento esci, al momento esci. E poi adesso basta guardare, ci sono, costano anche 80 euro mi. Poi non abbiamo trovato neanche uno, non abbiamo trovato. Più poco che abbiamo trovato era 85 euro e 14 euro di trasporto. Oh, mi sembra che 80 euro, mi sembra che l'ho visto 80 euro. Vabbè, tanto ormai è preso, che ma domani ci guardo così anche per curiosità, capito? Che hanno ammazzato, non è che costino molto. Per cui Bellino, già Bellino so, e poi tu già lo conosci, tu che sono roba che sono tranquilli là. E io lo grido. Oh, io ieri stavo mi guardando anche con lui, più guardavi e più salivano di prezzo. Anzi, per cazzo, se non avevo da bene oggi, ho alzato un bel suo alzati. Ma stavo dicendo, i Vox mai l'hai usato? Sì, con l'altro microfono. Sì, l'ho usato parecchie volte, anche in macchina l'ho usato. E vado bene, no? Funziona benissimo. Parli e lui si attacca al microfono. E poi quando stai zitto si sente parlare. Io non ho toccato, non l'ho guardato nemmeno, so che c'è altra cosa, ma non l'ho guardato nemmeno io. Se chi l'ha toccato? Oh, non che mi interessa. So che mi interessa il Vox, però è sempre meglio averlo. Hai sentito a Luca? Cazzo. Sì, alla gente è così. Sì, che avete sentito, siamo qua. Adesso ho 27. Usate i chili. Che te, la voce squillante che va. Luca! Che stai facendo? Cazzo, che stai facendo? Sì, tutti facendo stiamo. Ma li chiudi? Ma c'è il vento? Il vetto ma non ha posto, vero, in oggi. Ha posto la base dei Gagliari. Buonasera comunque. Sì, buonasera anche a te, Luca. Mi prenda Gian Marino. Salutiamo a Luca, dai, con la buonasera. Lui lo sta facendo sempre. Lui fa sempre sempre facendo, così è. Facciamo facendo, fai bene, fai bene, profitta, perché quando c'è vita c'è sempre speranza. Quante volte c'è la vita, non c'è manca speranza. Lavoricchiando sei, sì? Guarda, no. La verità è che devo fare un computer, solo che tipo, sai che non posso fregare. Perché se una cosa me la dai tu, sei meglio di fare tu. Praticamente questo computer non ci può più stare di più. Oh, boh. torna fuori e dinero in lucro. Ho fatto delle prove, so che il danno è quello, se lo vuole riparare mi deve dare soldi, e se no già tocca come lo porta avanti. È facile, fai così tu, certo. Grazie, si va con maturati, avanti davvero. Allora, lavoro è quello, sia bene, funzione e passa per l'affrontamento. Costituzione artistico, poi lo devo installare o non so aggiornare, a tutto lo sto mettendo io, ho tanto non ho fatto, io ho fatto da quanto, se vado a un tecnico minimo ho fatto 120-130 euro per fare un lavoro. Beh, secondo i lavori, cioè, a me l'altra volta me l'hanno svuotato, però ve l'ha fatto uno del mestiere, là, ve la faccio, e ha avuto 50 euro, però siccome dopo mi ha fatto un'altra questione, l'ho alzato in giro, 60 euro, però era come nuovo, è come nuovo, per cui sono già 4-5 anni e ancora è perfetto. Quello che fa il tecnico fa quello, io l'ho fatto uguale, faccio quello che fa lui, perché se lui è esperto, se ti posso dire una cosa, non è un vanto per me, non mi interessa, però è capitato più volte che gente ha portato il computer e tecnici e sono ripugato qui, perché io arrivo a matti? Forse secondo cosa che doveva fare, boh, io non me ne intendo, non posso dire niente, io ripeto, sto dicendo quello che ho visto e per cui a me me l'ha svoltato perché c'è troppe cose c'erano, come adesso mi ha segnalato, oggi mi ha segnalato che è lento, è un po' lento, così che bisogna anche aggiornarlo eccetera eccetera, però infatti già lo uso poco io qualche sera così, ma raramente, per cui quando funziona più allora me lo faccio mettere a posto. Ah, ok, non ti hanno sistemato un po', dai, faccio un sistema, non l'ho abbassato, un ritardo, aspetta, sistemato il sistema perfetto, ancora non lo sarà ritirato. Avanti, ciò, ripeti, va. Già verrà a ritirarselo. E a me faccio un coso, un chiesino che funziona. E verrà già rombato da una bassa. Ma è durato, verrà già rombato da una bassa. Ma è vecchio? No, non è vecchio. C'è Windows 7, c'è. Ah, ecco, questo qua è Windows 7. Questo è un Lenovo. 2 giga di RAM, 3 giga di SSD, ma funziona bene. Praticamente l'ho fatto navigare tra le carte del telefono, che sta dentro, e lo connetto lì, e viaggia benissimo. Ci mancava, in quello lì ci mancava l'hard disk. Io ho messo l'hard disk, gli ho messo Windows 7 e funziona benissimo. Funziona. Certo, c'ha 2 giga di RAM. Ho capito, dai. Ecco, appunto come si può. Ma io sto a casa un attimo, che ha qualche anno che sono bene, non devo andare fuori, per fare le ultime, insomma fa per tutto l'uso, per cercare magari qualcosa che mi interessa. Io lo usarlo, sì, lo uso poco, magari per guardare cose così e basta, non è, magari se dovessi esserci qualche cosa che mi piacerebbe, che la voglio prendere, non ne so fare di niente io, capito? E per cui non ho. Io mi guardo qui a guardare, guardo e basta, tutto lì. Inutile, non è che ci vada tanto, magari se ci sono mezz'ora dopo mi fanno male gli occhi, sai, con tutto e sto dopo una settimana che non lo tocco. Io ce l'ho qua fisso il computer, il mio, che c'ha 8 giga di RAM, lo uso per fare cose di copiare filmini, cose da farli io, i filmini, mettere sui CD e cose. Me lo uso per quello. Per cosa ordinare tutto, mi ordino, lo me le ordino dal tablet. Il tablet è costato poco adesso, ci sono tutti presi. Oh, boh, non mi piace il tablet a me. Boh. Non so, a chi piace? A me, io vi raggio, l'ho pagato 460 euro, l'ho pagato. Per guardare e cosa, tanto che accendere un computer, il computer l'accendo quando devo fare, devo usare la stampante tutto quanto. C'ho anche la stampante io qua, però la devo buttare perché si sono trovati come si chiama, non mi funziona, è nuova nuova perché io l'ho usata poche mesi, ce la devo buttare fuori la bondezza, ce la butto lì, dice la cazzoletti, non mi interessa più perché prima ce l'avevo collegata al computer, facevo anche il fax, quello che c'ho io, capito? Però adesso non ne uso più e ce lo butto, l'altro che chi lo usa a casa? Adesso sono moderni e vanno più bene. Infatti mi sono facile moderna, No, Giorgina, mi dovrebbero arrivare giovedì, devono arrivare le cartucce. Aspetta, e non che costavano un bedetina e me la ci comparati. E così andava. Riprendetela, Luca! Anche io ho la stampante, la mia è qua, arrivato un amico. Tanto sto facendo vedere a Luca, faccio vedere le cartucce. Quanto capito forse me la devo resettare questa macchina? Sì, secondo che cartucce sono ci vuole la macchinetta per resettarle. Invece nell'HP le cartucce se le resetta lì. Io me le sono fatto caricare lì via di Giuseppe una volta. 45 euro me l'ha preso. E non fai prima a comprarli gli originali. Infatti questo che ho sono nuove stesso. Infatti non mi funziona le notte. Sì che ce l'ho lì buttate, per cui non cosa nuova e cosa parecchio, poi ci sono anche quelli di normale che costano più poco, capito? Però non ne ho preso mai di quelli lì. Ah, io mi li ho ordinate, mi arrivano giovedì, andate. Infatti io devo vabbè da se funziona. E adesso sono tutte digitali, belle, cazzo, fanno delle foto, cazzo, che è una meraviglia, cazzo, sembrano fatte della macchina fotografica, cazzo. Per cui ce ne sono belli, però no, non ne voglio. Cazzo, già bello il Mugisù, fa fotografie, dice Dropurisa, dici. Le uso per farmi quando devo fare le cose, e boh. Luca! Però attento, poi mi stanno molto per me, faccio devo piacere, sarà la linea. Io avevo quello grande, avevo la base, e cosa, il monitor c'ero buttato e tutta l'altro la talluca, ma buttato l'avevi, ho usato l'avevi quello lì tu. Quelli sono belli, infatti no, mi sono messo per buttarlo fuori, dico ma ragione, sì. Ci avevo il monito più grande pure, dopo mi hanno dato questo monito più piccolo e già ce l'ho buttato. Vabbè. Vecchio era, però era ancora funzionava bene quello lì, un po' vecchio, però funzionava bene. Vabbè, adesso sono moderni, per cui è tutto un altro discorso, là. Per cui adesso sta uscendo tutta roba digitale e per cui sembra migliore, ma boh, cosa hai detto? Infatti, no, sono tutti sta roba digitale, il telefono e cose del pigliaduto. Prova a chiamare il signor Bacchisio tu. Attenzione signor Bacchisio, se ci si dà un colpo. Non da fa, ha detto che non ve. Certamente ancora è l'apparato tu. Ah, sicuramente sì. Oh. dopo sto già cominciando a alzare la campagna. Ci devo restare a decidere i ferri. Ok, vabbè, già avrà entrato prima delle 8, ma ho ancora presto, insomma. Sono le sette meno 10 appena, cazzo, no. È presto ancora, quello sta lavorando dentro la serra, allora si può non fare, lavoriamo a luglio. Oh, che ha detto ce n'è nel negozio, ce n'è là, ma è giusto che fosse a luglio, ce ne va prima, via prima. Grazie a tutti i giorni, e per cui un po' tutti i giorni la cosa si fa più fretta, non è come me che ci scendo le morte di pappa, magari quando scendo se ne faccio poche niente, mentre lui invece magari scende tutti i giorni, e per cui le cose si fa più facilmente, capito? Poi anch'io prima ci andavo molto spesso. E da Galabiu, sono stato loro, insomma. Ma quella è la vecchiaia che lo fa. Ma sono contento di io, ma c'è busta che non porto nulla, sta mettendo da ciacchi. Sì, vabbè, ogni tanto bisogna fare più, vero? Sì. Prima si andava a innaffiare due volte alla settimana, ma non innaffia di più, ha già ritirato il gruppo. Oh, i padri e i mori, non le vanno, e cazzo da putti. Non innaffia di più, non è abbassato tutta l'estate che si parlava due volte alla ghida. Tagli su Luca, dove devo fare che cosa? Allora gli affaro. Infatti. Attenzione signor Marchisio, ha detto che no, ma com'è non si acciara dubbio? Domenica sera sono passato di fronte, c'era un bel di gente, c'era sul piazzale lì davanti alla casa, ho suonato, ma forse non mi ha riconosciuto, però c'era parecchia gente, chiacchierando ero più o meno, magari forse parenti, capito, perché c'erano anche ragazzi giocando lì penso, e per cui però sono passato anche in fretta, suonato e basta. Vuol dire allora non ti ha riconosciuto. Vabbè, ieri mi ha chiesto anche Marchisio se entra in marino, se te che l'hai inteso più, a meno che non si doveva pagare la comprazione. Ci avrà anche da fare lui, capito? Magari sul giorno lavora, poi c'è da fare sabato, domenica che non lavora, magari lavora lì, perché quando c'è un pezzettino di terreno uno, anche se abita lì, lo fa, si mette là a fare, capito? Non stanno fermo, capito? Infatti è strano che anzi quel periodo scorso si è aumentato quasi in tre sere, mentre invece adesso si fa desiderare. Infatti, vabbè. Se vuoi entrare già se mi loghi. Se no, pazienza. Eia, avanti Luccarie. Cazzo. Non veri oggi? No, pensavo dopo la macchina, dai, la manica della macchina. Ma quando andava giù lo sportello, le parte giù lo sportello. La manica adesso era un po' corsa, ecco, là. Ragazzi, da lì forte me la macchina, ma uguale, già contata, fatta lui, ecco. Stamattina ho trovato il bello del latte dolce, caccia giù, stava riparando, mi sembra il campanello, lui è un tecnico, boh, cosa era quello lì, e mi sono fermo, 5 minuti, 5 minuti che abbiamo fatto la chiacchieratina, mi c'era anche Toro in mezzo, tutte e tre cricche a crocco. L'hai preso lui? Sì, stavate, siamo visti con tutta, dai. Siamo vabbè. Che pensiero, è tipo parenti. Non ti ha detto di fare il finale. Evidentemente perderà a vivo, a salufà, a Marco si vola che sono di Muciacara. Vabbè. Travaglio via. E non vedei, no, vedei. Travagliare, sono sempre travagliati lì. Su, chi si chiede sempre, sempre vinci sono chissi. Si licenzia da voi, lì domani fate tornare a travagliare un altro lungo, capito? Me ne pochi disoccupati, capito, fisico collocamento. Io poi che faccio? A tiappo la fila. Infatti, no, stamattina non ce n'era, sono passato io lì, non ce n'ho. Io venderò l'ombre. Allora, puoi immaginare, sai se trovi fisico collocamento, a tu posto, allora mangimi. Infatti, venisò un bel, venisò, bisogna stare dentro il coso. Fanno quello che vogliono loro, tu. Tradito, fatta la legge, trovato l'inganno, fanno quello che vogliono. Ma io li vedo sette persone lavorando, boh, e vi dico che sono morendo di fame, ma la mia famiglia non sto travagliando, boh. Infatti, non sono me, ma vedi i figlioli, eppure, boh, non so come ti voti, anni. L'aria vivi, sai niente. Boh, boh, io, se mi vedi me. Certo. Ma tu ci vai all'ufficio collocamento, Luca, o no? Luca si deve essere assentato. Se mi lasci andare a mangiare. La veglia basta il forno e le venderà chiccio le dendi. Le racchiccio. Caro, quel tratto il coso le, il giornalista oggi, gatta. Lui ha corrente di tutto, gatta. Proprio strano, ieri a sera. Vabbè. Che sarà indaffarato oggi? Sarà in orto apotarico o la vendere i biati? Sicuramente. Hanno un dogano oggi da attaccarlo. Hai sentito che a giorni non ne ha voglia e per cui non la accendere meno. E fatti cose pure a cavare, a tappare i baracchini, a cavalli e da voi chi tanca ti devi tornare a tapparli per imbruttarsi e non piglia più, allora. E se ce la cade più. Oppure sono così. E attacco il terrore, è già tutto pronto. Però loro evidentemente non vogliono vedere niente davanti, per cui vanno a modo loro. È giusto che sia così, ognuno ha le idee sue. Lo sai che è pesante toglierlo dall'armadio, attaccarlo, cazzo. Purtroppo lui lo fa, evidentemente non voglio avere niente davanti, capito? Ti danno fastidio forse, i miei nomi sono sempre amici, attendo il torrettore e funziona tutto, e allora se lo può diventare a Mario, lo saranno, ma piglio fatica a cavandina e trassini, così che va sempre così. Infatti, a me, guarda, attacchendo bene mi dà di fastidio. Eia, Luca, Luca mangia la massa forra, allora lasciamolo mangiare, sennò la questione è seria, che è del giovane, devi allattare, capito? Devi allattare, non si chiede di mangiare forti. Andiamo a vedere. Attenzione, signor Marchisio. Attento, messi, che ti ha preso, oui. Andata va, manco Luca risponde. Ah, boh, che dentro non scende. Signor Marchisio, se tu non sei scendi, Marchisio, dai due colpi se sei chiuda, ma il segnale è tuo, Hai visto che lui, ormai conosciamo il coso di Marchisio, sto. Metti a posto il microfono. Infatti. alleluia. Signor Bacchisio. Ma è facile. Ma non ha chiuso il microfono, a me mi pare sia l'apparecchio. Capito? Perché il segnale è forte. Però era radio, evidentemente c'è qualche cosa nel relievo. Ma chi a noi sì? Io penso che sia una cosa del genere, c'è il relì invece che non lo fa uscire, ci sono di portate e basta. Attento, messer Bacchisi, aio che t'ha preso, ui, a dita l'aleare. Andiamo. Messer Bacchisi, attacca il nastro. Sicuro. Guarda che te l'ho ordinato ieri sera, mi è stato già spedito. Sicuro. Andiamo bene, buonasera. Adesso se ne è abbassata la radio. Buonasera, signor Bacchisio. Conta le ore, mi. Almeno dopo ci sentiamo. Capito mi hai? Sicuro, la radio bassa c'hai, comunque riesco a sentirti. Io pensavo fosse ancora a ritirare di Ferri, invece sei a casa già, riprendi tu, che sta orneggiando, sta Bacchisio. Davvero, orneggiando, vedrai dopo lo sentiamo. Infatti. Allora sentiamo sì. Pagli, attacca il rondoso, che tu portatile. Che portatile c'ha? Cosa non vengo questi portatili? Però c'è solo quello. L'ala mi sembra. Mi sembra 142 euro mi sembra che costa, 132. Cosa ne gare cosa ne dici? Sta rimanendo gallo guso. Infatti. Ti vuole così da budito. Andavo. Ho avuto i poni, ha avuto la fagliette, ha avuto il vidra, no? Ha avuto anche i toccai, portatemi che ha avuto meglio, però è inutile, quelli da macchina, l'unico sono questi qua, basta, non vanno, però in mancato l'altro, chiaro che uno usa quello che c'ha, anche se uno va a passeggio, se ce lo porta è già è utile là. E infatti, ho una gara, no? A Maria Brandi, e si vuole un poco di ozio, ma con frigidovi da buco. Era signor Macchi, aiuto, capita, attacca il portatile. Attacca a terra, avanti, buonasera a tutti e due, ma ascoltati. Ecco qua, almeno sei tu adesso, almeno ci sentiamo per la peppa, però tu. Ma attacca pure un rugoso, meno portatile, che tu portatile che ti ha dato Giovanni. Però io ci vuoi attaccarmi. Ma cosa attacchi a portatile? Funziona bene questo paracchino, ho trovato difetto. Funziona benissimo. Andava allora, meglio così. E adesso si è abbassato anche il segnale e sta fischiando. Allora adesso mi faccio fischiare, guardami. Prima c'è tutto forte, adesso ci sto basso a finale. Solo di rotto perché esco basso. Vuol dire che ho bisogno l'inganno. Mi inganno, il croco c'è ma non si vede. andemmo. Allora, il croco c'è ma non si vede, è nascosto, che cosa bella, dice, oh yeah. Ma io perché mi sa rilevare il fone, che dà? La sapete che passa con la gente. Si arrada, intendia corrente, intendia. cos'è questa trombetta? Ah, così sì. Cos'è che te sei fruscendo, Bacchi? Fruscia, gli amplificatori. Quando si dice amplificatore, fruscia. Sì, allora vuol dire che l'amplificatore non è stazionario. Ma gli amplificatori sono un altro radio. L'ha inserito come qua. Però invece con questo non funziona, fischia. Io penso sia il microfono che lo fa fischiare. Infatti, l'attacca tu e allora così non fischia. Sono senza, volevo amplificare la modulazione, invece non lo fare. Quello grande, no. No, al piccolo, in niente, che il 34 canali. Però c'è quel microfono che Antonio l'ha fatto e non è compatibile con quelle colonnine. No, vuol dire che allora non funziona. No, con l'altro funziona benissimo. Con questo innesco, hai visto, amplifica sì, però un casino niente. Uia, uia. Andemmo via, andemmo. Signor figa, non ho dormito, sì. Ah, sono qua, mi sto ascoltando. Meno male, ha terminato di fischiare. Cazzo, già fruscio, gatto. Ma evidentemente c'è qualche filo che fa contatto, se no non deve... Oppure non ci sono le condizioni giuste e ti innesca, ma chi? Andava sempre bene su questa radio qua, su questa radio non funziona, quando è stato cambiato il microfono non funziona più le colonnine, invece nell'altra radio funziona, adesso voglio provare un'altra cosa, ma no, è sempre schiavetto, e sempre fruscio, e fruscio vuoi a lui, lo vediamo un po', attendiamo, si è acceso e non fruscia. Infatti, adesso stai uscendo bene. Tutto a posto adesso. Il jack era, siccome c'è il jack perché cosa per l'altro ci vuole un altro tipo. C'era la baionetta che era innestata, ne ho tolto uno e ho inserito l'altro. E anda bene. Infatti. Come stai usando? L'Intec? L'Intec sto usando. L'Intec 34. Meglio così. Ah, si scende bene. Anche l'amplificazione trova, di russo. Funziona anche due colonnine. Oh. Meglio così. Anda bene, dai. Via, via. Anda bene, vela. Allora stiamo andando con 3 watt e stazionarie 1 e 2. Io ho provato il microfono di come si chiama? Di quell'apparecchio dell'8 488 all'Intec 5000 e le condizioni sono giuste, non li ho toccati. Mi sembra che l'Intec che tra un apparecchio e l'altro sono tutti precisi le condizioni. No, io ne ho l'Intec che ne ho 3 o 4, uno diverso dall'altro. Se stai usando l'Intec che è l'altro nuovo che vedrai, li metto quel microfono e funziona ugualmente, perché l'Intec che è solito, sono sempre le solite le condizioni, capito? L'Intec qua c'è l'altro, cosa è questo qua, cos'è questo Intec? SPA 98. Questo è vecchio, però è dei primi Intec che hanno fatto. Io ho provato anche quello della Fayette, il microfono della Fayette, che va bene anche al Galaxy Saturno Echo. Ce ne sono vari, sono precisi le condizioni, capito? Però qualcuno magari c'ha qualche cosa di diverso e non va, bisogna adattarlo, capito? Certe volte la portante è con filo rosso, certe volte è con filo verde, devo vedere secondo chi ha costruito, capito? E anche la mappa. E certe volte uno magari può essere anche che infatti è rimasto troppo alto e ci può fischiare anche per quello. Pure quello c'è. Pure quello che funziona. Ma certo. Infatti è così. C'è uno che c'ha il coso dell'alimentatore dentro e ha già provato i roghi, ha manetto la bollonata e gira basso. Cosa c'è? Non ho capito. Cos'è, Bacchicci? Detto che era basso, che cosa? Abbiamo due la cosa, la radio mi ha detto che era basso. La tua? L'ho provato su questo apparecchio. Adesso ci va bene, prima sta facendo bene, allora poi mi ha detto, e domani mi ha detto che era basso del radio. Sta facendo bene, sta facendo bene. Va benissimo, lo so, va benissimo. Ma questo sì che va bene, lo so. Ho detto che c'è uno che c'ha l'alimentatore dentro, un alimentatore piccolino dentro c'ha. Stavo provando qua, io lo stavo provando, poi mi hanno detto che stava alla radio era bassa. Ah sì, Daniel giocavato, ma gli buttava basso. Perché c'ha quelli sopra compressi, capito, i microfoni. Quello che c'ha il trasformatore piccolino, come quello delle Misra, che c'hanno i toccai pure, c'hanno lì un trasformatore piccolino, quelli sono precompresso, sono precompresso, gli dà la potenza alla capsula, capito? Infatti, il giorno mi ha detto che sta facendo basso, mi ha giocato e ci buttano a basso. Chissà, boh. Evidentemente la capsula non era adatta per quel microfono. La sua originale c'era, la sua originale proprio dentro lì c'era la sua originale. Ma sarà partito quel trasformatorino, no? Lo stavo provando aperto, lo stavo provando. Scaldava quando lo stavo provando, vuol dire che già stava andando. Mi sembra che c'era già la sera, che ti hanno detto che stavi uscendo basso. Al giorno ne ha giocato, ha giocato e ha giocato a basso. Vai, faccia bene, signor Bacchisio, aiuto. E dove vuoi andare? A sappare? A sappare. Come col microfono nuovo, so quello che ti ho fatto vedere la sua volta che è venuto su l'inter, che non si adatta, non c'è rimedio di farlo funzionare, capito? Ci ho provato di tutti i tipi di colori, non c'è nulla da fare. O esce di portante sola o non esce nulla, o esce la modulazione col fischio. Cambio dei giri, sempre la stessa minestra. Due fili insieme e poi li hanno collegati, ma chi? Chi dice va, due fili sono collegati insieme, attaccati insieme. Ma io ci ho provato in tutte le maniere, non andava. Allora, cosa sai che ho fatto, Bacchisio? La faccia l'ho messo da parte. Il nero col bianco devi attaccare. No, il nero con la massa. Ecco cos'è, il nero con la massa, non il nero col bianco. Il nero con la massa, il telefono. Vai il telefono, vai. Nero con la massa. Ci ha ritrovato in mille colori, in mille qualità. Poi è un capo così bastardo, rigido, proprio che lo debito. Registrato. E che microfono è? Perché infatti due fili vanno a me, pure a me me l'ha fatto il Prozer, me l'ha fatto così. E capo un gatto non riuscì a farlo funzionare. Invece dopo ho attaccato questi due fili, ho visto che dopo usciva, che era una meraviglia. Tutto lì. Riprova, vedrai che troverai il punto giusto, ma chi? Bisogna provare. Se non si prova, non si trova. Avanti, signor Marino, buonasera, ben sentito. Un attimino, Gian Marino, sta andando bene la signora, ci sentiamo dopo quando rientro. Ok, ciao Marino, ci sentiamo dopo, Bacchi. Dottore, benissimo, vai pure. Ciao Marino, buona serata, avanti. Buonasera Giovanna, ciao Marchese, c'è anche Torre, ci vediamo più tardi, bene. Ok, allora ti va chi? Sì, io, e beh ma lì, giusto, piantato hai? O no, ancora non hai piantato? No, è diventato, sono, guarda, stasera fino adesso siamo con le piante grasse, quelle le grandi giganti, ho tagliato tutte per le puliste e così via, così ho già preparato per bruciare. Così domani sera faccio un piccolo falò, piano piano, dai, così domani sera faccio lo spazio, 2 minuti e me ne pianto. Avanti, va chi? Ehi, ehi, ho capito, ho capito. Tutto piantato, tutto a posto allora. Allora, tra poco mangiamo il frutto, eh? Magari, speriamo. Intanto sono tre, già nel convicino, me se ne stava a cercare il mulo, a me non prende né corrente, né freddo, né niente. E quelli vogliono protette, sono un po' delicato. Allora io finalmente stavo sistemando, facciamo lo spazio, adesso forse domani sera viene quello là, a Piua, con lo scavatore, a vedere che non più di quella roba di toletto, quella specie di... cosa chiamano, boh, va. Le radici di quella della siepe, così domani sera controlla, così se viene venerdì, ne togli tutto e... ah, ma qua giù venito. Avanti, Giovanni. Eia, eia. Dopo mi dice cosa hai piantato. Vuol dire verremo a mangiare anche, vengo a mangiare anche io. Domenica sera, lo hai sentito, ti ho trombato, caspita. E tutta questa gente che c'era sul piazzale, chi era? Non hai sentito? No, sinceramente non ti ho neanche sentito, guarda. Anch'io ho la malattia di radici, non sento. No, non so di cosa, Giovanni, non è che quando passano sono tutti quanti suono, capito? Ma non so se sono per salutare o sono perché magari da un cancello non sembra che sta qualche bambino. No, dove sei sceso in campagna tua figlia? Sono passato avanti lì, non mi sono fermo, ho visto che c'era parecchia gente sul piazzale, stavate parlando, c'era anche i bambini giocando, io sono atto e sono passato dritto, capito? No, c'era parecchia gente, insomma c'era gente là sul piazzale, ma c'eri pure tu? Sì, no, ma mia cognata sta giocando a tennis come un torto, forse il figlio così via, Erano pure, stava bene. Bene, l'ho piantato, il banale sta piantando, ho fatto ancora, devo fare una coltivazione di banale, Giovanni. Ma riparo al vento però, perché se non ho riparato si brucia tutto, E quella pianta vuole riparata anche dal vento, ma chi? Sto dietro la serra, per il filo c'è il frangivento non c'è più. E il prenditore che fa tutto affrescato, prima avevamo quelle foglie grandi, adesso sono tutte affrescate. È pratica, si riprende. Adesso dovrei togliere il casco, sto aspettando un giorno o l'altro che ci verrà a uscire questo cavo di roba. Perché è una pianta delicata, ma è una pianta delicata, no, ma io la metto fronte a terra, già messo il frangivento, l'ho messo, già ormai è riparata, vai avanti Giovanni. Ma infatti, certe piante purtroppo all'inverno vogliono coperte, perché se no ti la bruciano, capito? Io ho piantato il kiwi, ho piantato un paio d'anni, però non mi è mai andato, non so perché, se gli altri posti li ho visti che vanno, da me non vanno, chissà perché, ma chi? Ci vuole maschio e la femmina del kiwi, ci vuole maschio e la femmina, e poi vuole una zona soleggiata, le vuole tantissimo di quel sole, perché io conosco il direttore del Banco di Sardegna, che ha la campagna lì a Serolonga, dove è il campetto sportivo. Lì c'è la villa e ne ha 4 filali di questi imbecilli di kiwi, ma male a mattini le bolle, sono fatti una specie di pergolato. Cioè non c'è una donatina, fate male, se non c'è un maschio, dice, non conosce mai. Ecco com'è la faccetta, chi sa allora lì? Cazzo, due anni, cazzo, ho provato prima anno e mi sono morti. Ho provato l'altro anno lo stesso. E allora vuol dire che hai ragione, ci vuole il maschio e la femmina, capito? E vabbè, allora mi alzo bio, se la mia radio me lo compare giù. Più prese, vai Maria. E anche mio fratello vicino a San Camillo ce l'aveva, il maschio e la femmina, ma ne faceva parecchie, ne faceva parecchio. E dopo un momento poi si scende sulla destra, si scende una discesa, c'ha un nome, non mi ricordo il nome della zona. Era pieno. Dacchi, come si chiama quella pianta che assomiglia a... fa le cose tonde, tipo che come si chiama? Aspetta, c'ha un nome particolare, aspetta. Tipo fa le cose tonde, tipo le cose, tipo le aranci, però è verde. Non mi ricordo il nome. E giù a cosa, come si chiama? Giù a Fontanieta c'era una campagna che era invasa, a me era dato un pezzo di pianta e stava iniziando a crescere, poi io sinceramente l'ho trascurata e ero andato in quel paese, avanti. C'era il coso, il commesso, il Braghe Braghe di San Salesio. No, Braghe, ce l'ho anch'io, ce l'ho davanti in facciata, è una bella enorme. No, cioè, è tipo una lancia grande, però, ma ti posso dire, tipo calciare il collo del carciofo, va sbucciato e ti mangia, lo dice, c'è gente che lo cucina pure, non so come vediamo si chiama. No, lo conosco. Siamo lì, se lo conosci questo frutto? No, bello, non sono riuscito a capire ciò cosa stava dicendo, io stavo pensando ai corbetti, invece non sono corbetti, è un altro tipo di frutta, così è. No, corbetto ce l'ho anch'io, però che mi va che io genero, c'è un ingresso, ho visto il pane della luce che c'è all'angolo, quello mio ce l'ho all'interno, sono piante ma sono enormi, no. Questi fanno i frutti tipo aranci, no, verdi, vanno sbocciati, c'è gente che se ne frigge tipo la patata, no? E che adesso non sono così, però non mi ricordo mai il nome. Quando andavo alla prova per tirare a dire, c'era la fontana niente, questa campagna piena invasa, ma piena, figurati, questa qua il figlio trovava le cassette, le vendeva a Montenegro e le aveva trovate anche. Poi non mi ricordo il nome. Non te lo saprei dire, Maria, io veramente non so, sto pensando a che cosa può essere, non lo so. Ma chi? Fatto memoria hai? Non sono riuscito a capire. Ma è una pianta alta, mani bassa, com'è questa roba qua? No, fa alta, ma chi? Alta anche fra, come si chiama? Anche la piccante fa, figurati. No, sono la morighessa, no. Come l'ha detto? L'amore, la morighessa di Sassariso. La morighessa è una roba piccolina, questa fa, sono quelle tipo arancio, le cose grandi fanno, capito? È un frutto grande. Un frutto grande, io sì. Non ce l'ho presente un frutto, e che colore è questo roba qui? Rosso, giallo, verde, come lo mette? Pompelmo, sarà il pompelmo? No, assomiglia al pompelmo, assomiglia, però non è quello lì. Ma se c'è una vera, quel tipo che già lo stesso, io lo chiedo se nella campagna è il nome. Ma la trentina, io l'avevo messa sinceramente, e stavo iniziando a salire, a crescere, la tecnico subito. Ma io sinceramente l'ho trascurata, che qui era tutto cantiere, e c'era da quel paese. Quando lo becco io lo chiedo il nome, ma tu lo sai il frutto che dava, intanto è la pianta della parecchia roba, e questo si riempiva le cassette e le dava a Montenegro di Via Casreda, se le vendeva, hai capito? So che le facevano fritte tipo le patate, tipo melanzana, rimane più o meno, ho fritto, poi c'era qualcuno che lo mangiava così crudo, non lo so, vabbè, quando lo becco io lo chiedo, avanti Bacchini. C'è la frutta di sorci con Bacchini. Come ma questa sarà frutta esotica. Forse anche. Forse anche, perché il coso, cosa diciamo, le melanzane spinose, quelle sono rapicanti, non fa albero. E questo è albero, le melanzane spinose vanno rapicanti, non so se le hai mai viste, Gemmari. Perché ce ne sono, non mi ricordo come il nome di quei frutti che ci sono anche qua, ci sono anche qua da parte di Cagliari, ci sono quei frutti, sembrano limoni, sembrano, sì. Poi c'è un altro tipo, lo stesso della grandezza dei limoni, ma rimane un po' lunghetto, però sono maturi. Guarda, se tu Giovanni, se vai in questi ristoranti cinesi, loro cucinano qui l'abitazione, tutti quanti un pezzo di giardino e loro piantano questa roba qua, melanzane rapiccanti e così via, però non assomiglia, ma non è di quella roba, capito? Non è di quella roba, questa è qualche frutto esotico, quando lo becco glielo chiedo, va bene, va, non ci rompiamo la testa, avanti Giovanni. Va bene, no, infatti sto pensando cosa può essere, senz'altro è frutta esotica, perché sennò il frutto che si rassomiglia ai limoni può essere il frutto esotico, capito? Su per giù frutto come quello che ti stavo dicendo, magari sono tre o quattro tipi che non mi ricordo i nomi come si chiama, può essere quello, ma chi? Domani guardo sul catalogo di ingegneri a vedere se c'è. Domani quando scendo in giù in campagna voglio guardare il catalogo, vedere un po' cosa dà di straordinario. Si assomiglia al limone, basta guardare le figure e capisci cosa c'è scritto pure. Fagli la fotografia, Marie, fagli la fotografia a quella pianta, così che magari un po' ce lo mandi sulla scatola e vediamo un po' a capire cosa può essere, dai. Ma non ce l'ho io, domani, io non ce l'ho, la mia mi si è nascita, io l'ho trascurata, no, non la becco a quella lì che è un amico, capito? Lo becco se c'è ancora la campagna, pure mi faccio io il nome. Io ero un tipo da Terose, conosco bene, mi faccio un nome, ma di carità aveva la campagna invasa di questa pianta qua, proprio fatta una bella omestetica, come una bellezza bellissima che vedevi, questo lago pieno, tutto verde, con le toglievi, le dovevi sbucciare come le patate, e le facevi offritte come ti piace, capito? Però non mi ricordo il nome, tutto qui, avanti da chi? Strano, una cosa come le patate, mai visto, mai sentito, no, bisogna vederlo per capire cosa sia, ma no, domani sono curioso adesso di guardare ingegneri cosa mi dice che roba esotica, vedere cosa dà. E magari lo trovo, boh, tanto c'ho becco a lui, pure becco al fratello, il fratello lo becco sempre a quel bar che c'è dietro casa tua, via Fratelli Vivaldi, tanto lo vedete, mandrone, la ciapenchina non vado, la mandrone gira, se lo becco glielo chiedo a Franco, vabbè, come cavolo si chiama quella pianta che c'era in campagna, avanti Giovanni. Se non ce l'hai presente, infatti questi frutti esotici, senz'altro è un frutto esotico, perché diversamente avevamo saputo che, però è roba che non è roba nostra, magari è frutta che è arrivata, e allora in qualche posto senz'altro ci saranno questi frutti così, Macchi, prova a guardare Macchi domani a vedere, almeno ci sa anche il nome, cosa è, cosa può essere. Perché sono ingegneri, sono tutti i tipi di frutto, che sono siano italiani, siano esseri via. Bisogna guardare un po'. Ma adesso il colore è marino. Non ho capito, Giorgio, ma chi? Questo è il colore. Sono verdi, ma chi? Sono verdi stirati, tipo melanzana sembra, capito? Stirati però, sono delle strisciate, capito? Sembrano tipo pere, quel tipo di pere, come si chiama, non la solita pere, quella pera grossa, invernale, si assomiglia a me. Non ce l'hanno qualche altro di melanzana in estratto, no? non lo so, ti ripeto, mi ricordo che una volta l'ho beccato, ancora io abitavo alla Monte, l'ho beccato portando da Castetta a Montenegro, il mio casello, che la vendeva, figurati. Diciamo che l'ho visto a causa a Città Mercato quella frutta così, pure a capo l'ho vista, non mi ricordo come si chiamano. Anche l'inchiesta, non so, mi vedeva parecchio Montenegro, c'è la gente che la conosceva e ne vedeva parecchio pure. Mi sto lontano un minuto per un bicchiere d'acqua, avanti Bacchetto. Io. Bisogna vedere, no, domani sono curioso, è un albero, vediamo un po' i frutti che ci sono esotici, a vedere cosa dice, se è roba nostra, ma non è roba italiana, non può essere, roba accudita. Se è roba accudita, chi c'è allora? È roba accudita, cacciacchi, la banana non è accudita, la bacchi. E così è anche, ma ci sono tanti frutti che hanno portato e vanno, però in certe zone, non in tutte le zone che vanno. No, non in tutte le zone, no. Eppure, da Antonino, quello che lavorava dal cugino di Corso, io con Montenegro, lui ce le ha, a me me l'ha data lui la pianta, anche a Marino gliela data lui. E l'anno scorso c'erano le banane, quest'anno sto aspettando di uscire perché dice, ah vai a dormire ora, è grande come la mia, e sto aspettando il caschetto, l'anno scorso ne avevo una diecina. Beh, io l'ho piantata, la banana non mi è andata, ma perché ci vuole il posto adatto anche, capito? E dove l'ho piantata io ci faccia molto vento, per cui non è mai, si è bruciata, ecco. Infatti me l'hanno data in un vasetto, mentre poi meglio l'ho piantata e non mi è andata la banana. Però secondo me veramente va, perché l'ho visto parecchie piante in parecchi posti e sono ben alte, ben vicino a coso, la mia figlia gli a Ottava, ce ne sono tre o quattro piante, ma sono alte, un beate sono, magari un po' lontano dalla strada, però se c'altro farà, daranno anche frutta lì, boh. Guarda, a noi, Giannoli, a questo momento c'è la villa dell'ex, come si chiama, ex direttore delle case popolari, c'era la villa dopo la venduta, era pieno di banane, ma sono cipressi enormi, sono alberi proprio, piante grandissime. Però come banana non l'ho visto, ma come pianta si vede da fuori, si vede, sono grandi come piante, avanti io, da chi? Le banane le mette, ma non le mette come quelle che vengono fuori, le mette lunghe 10-8 cm, non di più, capito? Le mette corte le mette, però lo stesso sapore di quelle grandi. E come ti ricordi dove andavamo al circolo San Cristoforo nel cortile? Nel cortile c'era l'albero e banane, appunto, e c'era le banane e tirava dei cosi pieni di banane, ti ricordi perché? Ah, c'è il caschetto già. Io sto aspettando perché Antonio mi ha detto, non avrai la buona, che già manna la pianta, hai visto quanto è alta quanto è la serra? Però so che il vento, ripeto, la sto mitragliando. Al prossimo anno vediamo un po' di ripiantarci avanti qualche pianta di frangevento per ripararla, se campa, se non campa peggio per lì. Io ho la sacca, avanti Giovanni. Sono piante che hanno necessità di un appoggio, se c'è molto vento se la brucia, ma per cui bisogna anche ripararla. Però visto che lì vicino a mia figlia ci sono, ed è in mezzo agli alberi di olivo e altre frutte in mezzo, ma sono altre queste piante, però non so se frutta ce n'è oppure no. Però in qualche posto li ho visto, non fanno lunghe, sono più corti, però le fanno le banane, ecco. E se l'hanno messo vicino agli alberi, dunque, e sono riparati, dove sono riparati dal vento, ho capito. Ma qua è pieno, per esempio, quello che ti stavo dicendo a Cosa Vanoni è pieno. Poi ho visto lo stesso giù a Padalonga, ho visto una da casa che è pieno lo stesso. C'è molto sole, però sono riparate, capito? Non bisogno di riparazione al vento, avanti da chi? Riparo. Hanno bisogno di caldo. che se tu guardi alla provincia, in cortile dietro, passando per Umberto, ho visto quanti ce ne sono, se non una decina ce ne saranno, e sono alta, però non ci ho visto mai il frutto. Esatto, tu dici sole c'è da mattina alla sera, esatto, ma come frutto non c'è nulla, come frutto zero, sempre stanno salendo come pianta, adesso l'hanno sistemato quel giardino, ma come frutto nulla, zero e poco zero, avanti domani. Ma io fare il piace, l'ho fatto, non mi sono andato, ho piantato le banane, non mi sono andato, ho piantato i kiwi, non sono andati. E per cui ho provato a piantare il fragolo con gli arrampicanti, nemmeno. Allora ho pensato, ah sì, lasciamole dove sono, vado e me le compro, faccio più fretta. Ma tra la merugabbi, innaffiendi, riparendili, no, cavi il lungo, non anda. Ok, ma chi, riprendi. Sì, ma il kiwi va, è come la vita il kiwi. Che ci vuole il maschio e la femmina, se tu ci mettevi il maschio, quelle piante ce l'avevi già grandi adesso, perché se invece è così, la femmina vuole, non c'è compagnia. Esatto, è come il melograno, dice, se ti finivo di due visivi, se non lo andari, ma forse è vero però. Il melograno io ce l'ho solo, senza la donna, non so se non c'ho femmina, e ce n'è, come il limone, se non c'è, diciamo, un agrumo vicino non va, così è la roba qui. Ma io vi dico una cosa adesso, la calda del melograno, io ne ho una solo. Ed è vicino alla Pitoia e ogni anno mette melograno, ogni anno e in zona non ce ne sono altri, non l'ho visto nessuna parte, capito? E poi mette melograno e mi sembra siano questo affare di essere così, dice, di arance, se non c'è due arance non c'è l'altro, non metto frutto, sono tutte barzeccole. Adesso il limone che ho io giù di parlato, il limone dolce è solo, eppure mette limoni. Chi dice una cosa, chi dice una cosa, non lo so, ho stato per ballo, è una roba antica, la vita, se non c'è la donna non cresce, avanti Giovanni. Ah, io l'ho piantato vicino all'albero di limone, sì, l'albero è grande, però non ha messo mai frutta, in due o tre piante, non ha messo mai, e altri due o tre piante che ho, sì, ne mette, per un bel di fiori, e di sopra c'è qualcuno, quindi rimane qualcuno e poi minuto. A una, ne ha tagliata quasi, non dico, a un metro da terra, no? È uscito un puddone, più lontano, a un metro dal suo tronco, che fa già due anni, se l'hanno passata a posto per la grada, ne ha posto tre o quattro, la parte di rosso è tutto, ma chi c'ha pianta? I lasci pianti, bisogna anni non li vuole nulla, come ti mai? Infatti, il sciapuro vuole una lesione, se lui ha una lesione, che ha fatto legna nuova, e produce. E ogni anno, diciamo, posso fare il forbicione, in alto non ci va, sono sempre tagliati, ogni anno le faccio la barba, e il melograno lo metto in basso, ma quest'anno ne avrà una diecina, non di più, l'anno scorso ne aveva un casino, no, infatti non le mangia nessuno, le cornacchie se la mangiano. Allora bisogna abbassarle così, pulirle. Pulirle, io le pulisco ogni anno, una che ne ho, poca roba le lascio, capito, Giovanni? La porto al centro e la abbasso. Ascolta, Bacchi, a fianco a me vende un albero, ed è solo un albero giuro. Ma tu vuoi vedere mai che ha che pone? Ci pare il pallone, me ne aggranate che pone, niente. Hai fascia duro con ognuna con lo spettacolo. E se non si è mai buzzato il albero, mai. Cattivo, le pulisco un mese, eppure non la posso mai. Che cura le buone? Le buone, che cura la buona, minuta, la più matura della notte, me la è bassa. Infatti c'è piantina che è cresciuta qua due anni, le buone, c'è tutto, con due draghi, che è una cosa strana, ed è attaccata all'albero, sotto all'albero della Carrumba, e sotto l'albero della Lozzi, è cresciuta e ci abbia, ma non c'è qua a capanni della Lozzi, a dare un po' di aria, a vestire di buoni sempre, va. Capito, ma boh, vai a te caduto. Non ti piace tutto bene, no, ma io sono quello che non la mia, una all'olivetto. Ogni anno li voglio a mattini, è tutta minuta, sempre meno grande da 50-60 grammi, dopo minuta è 40. Ha svegliato la motosega, era già con un caffè di motosega, dopo sono andato un gruppo che mi ha dato vada. Allora sono uscito il bottone, ma non era andato avanti, tanto è una rotta minuta. È la qualità piccola, dunque cosa te ne va a fare? Ma quasi tutto via. Sono rientrato. Vaccello, oh, io faccio un albero di buon fermo, c'è di vicino, dai ve la faccio vedere, a bocca a beccia, dammi un faccio che se lo posso vedere, a Rosoccio dice che non vi credi, me l'ha aiutato, ma perché il pallone manno, ma lo dico proprio quanto vuoi essere un pallone, ma quasi canto un pallone, da canto di buoni, eppure tutto maturo, vai già, due anni che non ne pone nulla, prende uno solo a canno, e chi ci pone maturo è? Ma maturo ma chi? È una cosa impressionante, è un po' bello. Vuol dire di qualità buona, è bello così. Avanti, signor Tone, rientrato è. Sì, rientrato sono, a Soghinoghi. E il signor Marino, ha sentato se? No, io sono qua, signor Tone, non è che mi sono sentato. Tu ti sei sentato, ma già sei ritratto, meno male. E beh, tutto a posto, sì. Stanno a posto, sì. Tutto a posto, sì. Vedi così. E i cagnolini, sto bene, sì. Vedi, la Genovi, vicino, che si è arrosso un osso. Ma una cara, l'uffa o l'altro? Il bianco. Il bianco, l'altro di là, va. Meglio così, dai, avanti, domani. Ben rientrato, Tò. Oh, Bacchi, stamattina l'ho visto a Tori, in bicicletta era. Un corridore a vero, Maria, con un casco. Ma vedi, sei tolto anche se dire, Tò. Torre con la bicicletta, si torna a sedere. Ehi, un corridore a vero, Maria Gatta. Altri materi, le scarpe adatte, i pantaloni adatte, un casco. Ah, pita, ma chi? Un corridore a vero, Maria, oggi. Domani, torre con i buoni. Hai già fatto tutto così, allora. Quando si muove in campo una cosa, sole era quasi. Hai in bicicletta, ma va, devi pulire il motorino, devi pulire il motore di motosega. Io non era conoscente, io rassomiglia a coppie, non stavo rassomigliando, ma a coppie, non molto guppi. Ma che la giro base, forse tu hai sbagliato, stamane hai visto una cosa. Ah, tu hai visto, Fabio Alo hai visto tu. No. Ah, io già so che forse te l'avevo di picciti, l'avevo, la corsa, paghissimo è che non mi riconoscive. Mari, ma come lo scendi lui lo guarda? Ma poi mi sono capizzato, gli era Enno. Perché si nasconde, poi si nasconde. Ma quanti chilometri fai al giorno? Sono mangiato, ma ho fatto quasi quanti anni di chilometri. E sei andato, ho fatto cosa? Un giro umano ma ci ho fatto. Prima già si arriva da voi, brattiamo la bici con gli intainoghi. Ma da solo, no? Allora, io la bicicletta e Salvatore. Da solo, conviene, meglio compagnia sempre, sempre in due almeno, sempre in due, si sa mai. Fa bene camminare, dai, un po' di ginnastica, a manco dove vai, c'è panza che vai, vero so? Sì, c'è appena rida di Sogamo che vede, ma viene appena rida, cosa panza va giù io. Già fa bene un po' di ginnastica, va, pedalare. Comunque meglio uscire sempre in due, da solo meglio negativo, no, meglio uscire. Si esce sempre in due, non si sa mai. Avanti da chi? Gli rimasti sono in due, si porta il cane appresso. E via. Scusa, tanto, vogliamo dare un passeggino, un cane, sono buono da lì. Se così mi tocca tirare, non mi tocca tirare. È tutto a palestra, ecco. Quello è tutto a palestra, fa bene i muscoli, allora si chiama lì. Infatti, solito, bisogna camminare in due, che è sempre più tranquillo, insomma, le cose, sai come sono, però, vedrà lui, ok, ne approfitto, dai, grazie della chiacchierata, ci sentiamo domani, se Dio vuole, per cui ne approfitto, ciao Maria, ben sentito, buon proseguimento, saluto di casa, Ida Bacchisio, salutore Bacchisio, salutore di casa e salutore anche a Storia in casa sua. Riprenditore, io chiudo, dai, a domani. Ok, ciao Gian Maria, ci sentiamo alle prossime. Ok, riprendi Bacchi. Ia. Ciao Gian Maria, buona serata, buon curati, a domani si coincide. Bene, anch'io ne approfitto del micro per salutarvi e passarvi in QRT. Ciao Tore, salutissimi, a domani. Ciao Marino, buona serata anche per te. Ce la vediamo, ce la sentiamo. Ma chi ce la questa istante e chiude. Ciao a tutte e due. Ok, riprendo io, benissimo. Ciao Giovanni, ben sentito. Saluto in casa, ci siamo domani, se coincide. Ciao anche Marchisio, se ci vediamo domani, se coincide. Dai. Bene, avanti, to. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Ok, va benissimo. E bigliati da Mari. Ok, dunque hai fatto un bel giretto stanotte in bicicletta, così già fa bene un po' di ginnastica alle gambe. E voi non avevi oggi, no? Io non me che non abbigliavo, io ho roba di 4 mesi, e vai, se no di più. Quindi tu mi hai abbigliato? E me l'hanno fatto un giro umano. E hai fatto bene, ogni tanto va bene, un po' di ginnastica, fa benissimo. Vabbè, io la ginnastica già la faccio la mattina, già lo sai, dunque basta solo io la ginnastica la faccio, prendo la moto laggiù dal deposito, la porto al parco locale e poi faccio tutta a piedi, moto poco ne uso. Hai sentito cosa sta succedendo qui al centro storico, sì? Vabbè, non giù in deposito. Al centro storico, sparatori e cose altre. Sì, alla gente giù, sì. Ho sentito, ma già la ciappa negare. Sì, speriamo. Quello che poi anche ieri sera circa battute, la guizza di verso via Sforzione, non so che casotto è successo. Pensavo che piove delle camere, sai dove è andato, delle camere ha impiazzato e qualcuno ha pigliato e l'ha girato al contrario. Non so qui fa. Niente, bisogna che rimangano un bel nastro, a vedersi. E per non toccarli, soprattutto. Io lo sto usando, quello grande sto usando, o il piccolino sto? No, il presidente sto usando. Questo c'ha un tasto che permette di toglierti il QRM. Io sto usando l'altro. Diciamo quello che c'è quasi tu e Bacchisio. Oh, il 40. E anche quello già è buono. Oh, io ce l'ho qua sotto il 40. Sopra c'ho il presidente, sopra c'ho il 40. Ma chi ce l'ha ordinato? Cosa ordinato? Io gli ho ordinato ieri sera. Dovrebbe arrivare giovedì, dovrebbe arrivare, se no il 18. Ah, vabbè, io con calma volevo essere già. Ho un po' di spese, non posso fare nulla, non posso uscire fuori. Già sto usando questo, piano piano, poi c'ho anche l'altro, anzi sto con l'altro ancora, c'ho il Texa, con la Fayette, già va bene per il momento, dai. Infatti, non era un po' più di un anno, basta i visti e boh. Ma poi fa una mezz'oretta al giorno che si usa, se neanche troppo. Infatti, noi oggi eravamo dalle 6:05 con Gian Maria, va vedendo. Io ho acceso per far scaldare, poi invece mi hanno chiamato fuori e ho iniziato a tagliare, fare, spostare roba e sono stato facendo un po' di pulizia in campagna, capito? C'è un montare per bruciare, la sto mucchiando, pronto, me ne sto preparando. Poi c'ho dalle piante grasse grandi, ne ho tagliato così di sotto, i rami di sotto, perché forse dovrebbe venire la paletta piccolina, l'ho tagliato la siepe, no? E mi deve mettere tutte le radici e sto facendo una stazza, almeno passa, veloce, sta, toglie e si innanda, no guai. Piano piano, stiamo a Salombino, uno dove passa pure la palettina, pianto con le piantine che ho piantato e poi boh, basta, non faccio più nulla, non ho più gana. Bisogna riposarsi a va, pure in ferro. Sì, lo sai, che la mia altro, non ho più gana, boh, ogni giorno peggio, ogni giorno peggio, ogni giorno meno, ma non voglio di ieri. Infatti è così, sennò quando sei in campagna devi va sempre in pulizia, devi essere sempre in movimento. Sarete pulita, sì, purtroppo va pulita. Io sono il bambino, sono mio nipote, bisogna fare la pulita perché anche lui gioca pallone, gioca così e bisogna stare attenti, è meglio tenere la pulita e poi anche quando è pulita ormai è più ordinata, non so quando, ho capito, a me con l'erba poco mi piace e non c'ho soldi, sono le fatto tutta cemento che ho fatto. Ci metto un guscia, bisogna stare innanto, fa un bel bocco ma fallo. E intanto quello l'ingresso e tutto quanto al tempo suo mi ha costato quasi 5.000 euro, 5.000 qualcosa mi ha costato, vabbè, è stato grande, c'è una bella piazza, già hai visto quello faccio bene, non ero rimasto solo l'ingresso, che sono 8 mesi, non l'ho fatto perché mi mancava l'impianto del cancello, capito? Del vino citofono, se no avrei fatto anche l'ingresso. Solo quello che col pezzo manca, sono tutto l'altro e tutto cemento industriale, capito? Io ho visto, sì. No, ma già va bene anche così, va bene. Quando vai al coso, il biglietto lo fai. Ah, vai, lasciate uscire. Sì, piano piano, vabbè. Piano piano, quando c'è qualcosa, lo chiamo e lo faccio fare. Allora è terminato, c'è un unico ingresso e boh. Piano piano, bene, io ti lascio, c'ho mio nipote che sta mandando il messaggio al cellulare. Bene, ciao Tom, hai sentito, sono tu in casa, dai, ci vediamo domani se coincide. Ok, ciao Tom, ok, ciao Mari, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao.